24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Ciao Matteuccio, ciao Serico. Senti, ti ha chiamato Fonzie e Betino e ti ha mandato a fanculo tutti i giorni, no? Sei in adesso la stampa di Palazzo Chigi. Ah, scusa, vabbè, dai, ha detto lui le parolacce. Ah, vabbè. Però allora, adesso mi raccomando, non essere vendicativo. Gli vuoi di una parola bella a Beppuccio nostro dopo sta mazzata tra capo e collo che ha preso? Una parolina bella, ma dici per vai, Beppuccio nostro. Vai. Una parolina per Beppuccio nostro. Era quel malandrino di Enrico Lucci delle Iene in piena conferenza stampa a Palazzo Chigi a Matteo Renzi, eh? Una parolina bella, non essere vendicativo a Beppuccio nostro. Cari italiani, sono le 6:33 minuti, questa è 24 mattino. C'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è l'alpino Peter Bescapè in regia. E che dire, siamo tutti qui, siamo tutti pronti, siamo tutti convocati, stavo dicendo così il nostro amico Carlo Gente. Allora, eccoci, dai, apriamo il Parlamento che abbiamo tante cose da dire, nel dopo voto. Il caffè volentieri. Il dopo voto. Oh, noi iniziamo sempre con il Benigni straordinario sulla legge elettorale, no? Era del 93, pensate, del 93. Ma Matteo Renzi assicura entro luglio la riforma elettorale. Oh, siamo d'altronde nella 56esima settimana decisiva e adesso al 40% ha preso, dunque può andare avanti come un carro armato. Guai a chi si frappone davanti ai cingolati di Turbo Renzi. E allora può fare anche la riforma elettorale entro luglio, chi lo sa. Di certo ci sono tante cose da dire. La prima è che io, quando ho letto ancora Iena, io di solito Iena lo apprezzo, la pagina 3 della stampa, ma oggi ancora questo dibattito per far vincere la sinistra ci voleva uno di destra. Oh, mamma mia, che noia questi discorsi, che noia, che noia. Renzi è di destra, di sinistra, di centro, chi lo sa. Vincino è di destra, di sinistra o di centro? C'è la risposta oggi anche sul foglio. Ecco. C'è Renzi la destra, Renzi di sinistra, identico praticamente, anche Fortebraccio si sarebbe inchinato, avevano anche una storia simile in un certo senso. Ecco, infatti. Un po' poi comunista, come dire, no? Ed era molto simpatico. Una gran giornata, una giornata bellissima, guarda. Eccolo lì, 25 eccolo. Aprile, 25 maggio, noi andiamo di 25 in 25 praticamente. Perché? No. Da chi ti sei liberato? No, adesso da chi ti sei liberato? Come dire, da chi ci siamo liberati? Lo sanno il 40% che è andato a votare da tutti i lati, gente che ha rinviato tutto. Non so, mia figlia doveva partire tre giorni prima, ha rinviato tutto per andare a votare PD. Ma questo mezzo mondo praticamente. No? Quello Grillo ha fatto l'errore del secolo praticamente. L'errore del secolo. Diciamo un imbecille politicamente parlando. No, non cominciamo. Ma sì, cioè, non no, cominciamo. Ma poi, hai capito? Quello è minaccia prima, poi piagnucola dopo, come dire. Allora fatemi salutare anche Federico Novella, conduttore buongiorno, di Mattino buongiorno. 5. Non vorrei interrompere le vostre analisi pacate. No, infatti. Allora c'è la par condicio. Ah no, non c'è più la par condicio, quindi no, puoi dire anche tu quello che vuoi. Liberazione. C'è il ballottaggio. No, forse c'è il ballottaggio, sì, non possiamo parlare delle comunali. Però visto scapacciati che anche nel ballottaggio loro pazzeschi. Sì. Che c'è quello che doveva vincere. vincere in Piemonte, paf, al terzo posto. Quell'altro doveva vincere al terzo posto. Vincino, Vincino si è svegliato, doveva dire qualcosa da ieri, no? Che questa cosa sul Movimento 5 Stelle ce l'ha qui, no? No, ne ho fatte 25 disegni di vario tipo. Continuava a disegnare in automatico. In maniera compulsiva. All'alba ho capito tutto. Compulsiva contro Grillo. Praticamente, fai conto, c'è un treno superstar di questi qua, volta velocissime cose, e c'è uno con la bicicletta attaccato. Dice, ma a che cosa serve a Renzi uno come Alfano? No? E Alfano è quello con la bicicletta attaccato che fa rallentare questo treno super veloce. Turbo Renzi, non lo ferma più nessuno. Allora, Federico, intanto, vabbè, Vincino è così. Si sta sfogando. Vi ricordo a tutti i grillini, Vincino Web, questo è l'account Twitter di Vincino, per accompagnarlo in questa giornata in maniera sobria, e convinta e appassionata. Federico, abbiamo fatto... Assolutamente, ma sai, i grillini sono impegnati ad assumere Malox ultimamente, ecco. Quindi non, secondo me su Twitter neanche ci vanno ultimamente, ecco. No. Sono presi una pausa. Allora, a proposito di questo, caro Federico, sai che è arrivata la nuova strategia di Casaleggio. Casaleggio ha dato l'ordine, pare, a Beppe Grillo: sorridere di più. Siamo fuori tempo, caro Casaleggio. No, vabbè, prima. Adesso ho capito, hanno fatto un'analisi di quello che è sorridere di più. Ma se lui avesse fatto la campagna elettorale come ha fatto il video ieri, hai visto? Così, con un po' di ironia, ma che senza essere sempre così arcigno, forse sarebbe andata meglio. Fino a Berlusconi dicevano di sorridere di più. Infatti, il video è questo qui, è quello dove ha preso il Malox. Il Malox, Grillo ha preso. Dai, state tranquilli, vincono loro. Ma è meraviglioso lo stesso. Intanto io mi prendo un Malox, non si sa mai. E così. Casaleggio. Casaleggio. Ehi. C'è il Malox anche per te? Vabbè, Vincino, hai capito? Si comincia a sorridere. Potrei dare un consiglio a lui? No? Sì. Allora, i migliori sono i senatori che ha espulso. Se li riprende, che sono gli unici che un po' pensano cosa, che ogni tanto gli dicevano qualcosa, questo qua non va tanto, se li riassuma tutti, anzi li metta a capo dei gruppi parlamentari e via. No, sai perché? Oggi sui giornali già c'è retroscena, pare che alcuni deputati renziani abbiano già via WhatsApp per non essere rintracciati, gli SMS, abbiano già contattato tutti i grillini, collaborate con noi per le riforme, no? Lo scouting è ripartito, no? Ti ricordi quando si diceva Bersani doveva fare lo scout? Ma anche Renzi è circondato da deficienti, diciamo, non è che ma infatti lui se me l'ha messi tutti là in prima fila, farsi fotografare, e lui tranquillo, poi da solo quella foto era straordinaria. Federico, l'hai vista quella foto? Tutti la foto di tutti lì al tavolo dopo la vittoria, no? Tutti renziani, c'era Stefano Fassina, renziano della prima ora, no? Certo, anche noi, Alessandro. Sì, c'era Nico Stumpo che sorrideva. Vi ricordate? Io mi ricordo le frasi di Matteo Renzi: secondo voi io dovrei preoccuparmi di un Nico Stumpo? E c'era Nico Stumpo che sorrideva. Ha vinto Renzi! Evviva! Tutti renziani adesso sono, no? Tutti renziani. L'organizzatore della vittoria di Bersani e di materiale, Nico Stumpo. Sì. Tutti quei brogli là li ha fatti. No, tutti. Che brogli, dai. Quando ha vinto Bersani con Sorrenzi, mamma mia, ragazzi, ma che lo possiamo dire? Hai capito, Federico? Tutti renziani adesso. È il carro del vincitore. C'è posto per tutti, dai. C'è posto per tutti. Il caro vecchio carro. Alino, lo sai che eravamo renziani da molto prima. Sì, ma chi? Tu forse? Non lo so. Io, no, io, come ho detto, tu sempre lo sei stato di quelli proprio di quelli di... io guarda, cioè, tra noi due la gara chi lo era di più, io guarda, lo devo dire, cioè quelli che mi continuano a dire, tu mi scrivo sei filo renziano, sei filo grillino, sei filo berlusconiano, sei... ma io faccio fatica a stare bene con me stesso, ma dai, ma su, ma è il massimo che... anche tutti noi diciamo, anche Novella, insomma, non è che... ma io ero renziano prima della nascita di Renzi, molto prima, è un pre-renziano Novella, Novella. Renzi era lapiriano, noi eravamo lapiriani, quello che c'era, il crinale storico, il sindaco Lapira che andava in Vietnam ma tornava con 7 prigionieri americani, no, era bravo quello. Comunque sentite Vittorio Feltri, no? Vittorio Feltri dice che Renzi a questo punto potrebbe essere considerato una divinità. Che uomo solo al comando, ormai è una divinità e per lui sarà difficile adesso mantenere questa sua posizione di privilegio, perché è vero che ha ottenuto la fiducia di quasi la metà degli italiani che si sono recati al seggio. Insomma, ma è una divinità, Federico, adesso effettivamente cosa può succedere, nel senso che forte di un 40%, così. Possiamo coniare il termine Napole Renzi, se vuoi, ti piace Napole Renzi? Napole Renzi, eccolo lì. Succede che in realtà lui adesso, per come è messo, può fare un po' quello che vuole, nel senso che quello che ci auguriamo tutti, che mi auguro io, è che davvero, come dice lui, vado a battere i famosi pugni sul tavolo dalla Merkel, perché sono il più grande partito socialista d'Europa, faccio le riforme, faccio la legge elettorale, e addirittura lui, che non è il sprovveduto, potrebbe cogliere l'attimo per trovare un pretesto per andare a votare da una posizione di massima forza. Quindi sì. Io francamente adesso insidie per Renzi non ne vedo davvero, non ce ne sono per il momento. Non ce ne sono, le insidie di Renzi, come al solito, sono i suoi amici nel Partito Democratico, sono quelli che, come dicevi tu, magari si fanno la foto tra i renziani, ma covano questo rancore che questo 40% non ha seppellito, secondo me. Poi la vendetta se la prenderanno loro. Attenzione, eccolo lì, subito. No, il solito PD, no? La solita sinistra vendicativa che cerca di sostenere da una con la mano sinistra sostengono il leader e con la mano destra brandiscono il pugnale. Non è la prima volta. Così. Te la vedi così, Vincino, anche tu, no? Io ve lo so, l'ultimo disegno che ho fatto un quarto d'ora fa, c'è Renzi con l'elmo di Scipio, là così. Ma quanto stai godendo in questo momento? Ma non riesco a fermarmi, sono da due, infatti è un disastro, mi porteranno all'ospedale tra poco, perché sono invece calma, non disegnare più, no, ma mi calma, da tu più un altro disegno, vengono proprio. Io vorrei sapere, c'è un'altra. C'è un pericolo però lui, Qual è? Cioè, lui andrebbe bene, va tutto bene per i prossimi 20 anni, tranquillo. No? Però l'unica cosa è di essere attento, non deve fare riforma della giustizia e stare attento al partito Magistratura Democratica. Eccolo là, il partito dei magistrati, lo abbiamo sistemato. No, quindi Magistratura Democratica, no, dei magistrati, perché poi ci sono anche... il partito di Magistratura Democratica, siamo precisi. Allora, mi scrive un ascoltatore, Luca, Milan, invita ogni tanto anche qualcuno che non è solo del PD, sei uno scandalo tu e Vincino, e tutti i giorni abbiamo ospiti di tutti i partiti, anche oggi alle 8:15 avremo Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, oltre che Gianni Pittella del PD, insomma vincitori e vinti, quindi che dobbiamo fare? Cioè, ma tanto come la fai la sbagli, no? Chi inviti tu oggi, Federico? È così, anche a me dicono inviti solo destra, inviti solo sinistra, e io oggi c'ho un po' tutti, c'ho un PD, poi c'ho Toti, poi c'ho Salvini, e facciamo insomma le nostre analisi. E si vede che spengono quando parla uno. Non lo so. Sono disattenti, che ne so. Però io vorrò sapere cosa è successo a casa Vincino, soprattutto per il mitico busto di Andreotti. Tu non ci crederai, ma poi più tardi ti mando una foto. No, mi mandi una foto. Intanto un sorrisino. Dal marmo è uscito un sorriso, perché no, lui aveva paura. No. Siccome quegli altri sono iconoclasti, lui aveva paura che veniva, prendevano, lo distruggevano. Il busto di marmo di Vincino, di Andreotti, il busto di Andreotti a casa di Vincino, busto in marmo di Carrara, ha fatto un sorrisino. Ma tra poco ci spiegherai perché, dopo il traffico. 24 mattino. Buongiorno. Abbiamo visto che con 80 euro l'italiano si fa comprare molto agevolmente. La prossima volta ci avevo già pensato anch'io. Mi candido. Sigarette a 2,5 euro e gasolio e benzina a 90 centesimi. Gli italiani hanno dimostrato, o noi o loro, scelgono loro, un popolo di disonesti. Disonesti! E anche questa volta gli italiani si sono fatti inculare. Chi non è andato a votare o chi ha votato il Renzi. Volevo dire una cosa a Renzi. Dopo questa barca di voti che abbiamo preso, mi raccomando, giustizia sociale, dipendenti statali e dipendenti privati devono essere unificati tutti con gli stessi diritti. Forza Renzi, sei un forte, sei giovane e l'Italia è in mano ai giovani, e viva l'Italia! Pidi, Pidi, scusa Milan, Pidi. Volevo dire, Pidi, scusami, ho chiuso il seggio da poco, Pidi, ho ancora il riflesso condizionato però, Pidi, Pidi, vabbè, richiamerò un'altra volta, Pidi, ciao! Avanti Renzi, con la lancia in resta, è rara un'occasione come questa, la sventola per Grillo è stata grossa. E Alfano ancor si medica le ossa. Ma non distrarti mai, ti dico, e quindi non ti scordare mai D'Alema e Bindi. Ciao da Felice Pautasso. E allora con Felice Pautasso, invece noi siamo con Federico Novella, con Vincino. Io a questa cosa, ecco, che no, Federico, chi ha votato, quelli che hanno votato ne dicono: ah, ha vinto i disonesti. Ma io capisco tutto, la rabbia, ma voglio dire, cioè, hanno vinto i moderati, hanno vinto i disonesti, hanno visto, no, l'Italia non vuole cambiare. Ma non è che uno è obbligato a cambiare, cioè non è che è un reato votare, ma per il Partito Democratico, come si cambia, cioè da 70 anni l'Italia è moderata. I cambiamenti li vuole fare la rivoluzione, come diceva qualcuno, la rivoluzione gli italiani la vogliono fare sempre col permesso dei carabinieri. Certo. Evidentemente stavolta si sono presi paura il Renzi, e questa è la vera novità, ha attirato i moderati pur essendo di sinistra. Questa è la prima volta che succede, di solito è il centrodestra che li attira i moderati, no? Sì. Comunque Vincino, allora, il sorrisino di... Io ho un'ipotesi del perché ha fatto questo sorrisino. Forse Andreotti ha pensato un attimo a quello che è successo a Nusco. Ah, con coso? Con De Mita? Sindaco Ciriaco De Mita, 86 anni. L'avevo votato pure io quasi. Ma non avevo dubbi, non avevo dubbi su questo. No, ma una grande saggezza, esperienza. Non avevo dubbi. Parla in croso là, in... Nuschese. Greco, sì, là, della Magna Grecia lui è. No, sì. Cioè, sì. È sopravvissuto a tutti. Sì, con sì. Una grande... Cioè, io, guarda... Tante volte nei colloqui con lui lo stavo ad ascoltare e non lo capivo quasi mai, però aveva una sua, pensavo, questo è intelligente, non riesco a capirlo, ma dice delle cose profonde. Ha detto ieri: sarà un compito impegnativo a 86 anni. Sarà impegnativo anche portarlo a termine a 86 anni, o no? No, dai, questo perché arrivano ormai a 103, 98, 105, tranquillo, questo no. Comunque, non c'è dubbio. Ha detto anche: non c'è futuro senza memoria, caro Federico, non c'è futuro senza memoria. Beh, a quanti anni questo? A 86 anni, Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco, in provincia di Avellino. Tra l'altro Ciriaco De Mita qualche mese fa divenne famoso qui a 24 mattino per la questione della scorta. Allora tu, Vincino, non ti ricordi questa cosa? No. Che ha una scorta tutta di vecchietti. Che ha la scorta. Allora divenne, perché la nostra Elisabetta Fusconi lo chiamò e senti la risposta di uno stizzito De Mita, Ne parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Questa fu la risposta di De Mita. Grande saggezza della Magna Grecia. Lei parla come un pubblico ministero. Gli ha detto, scusi, ma perché lei ha la scorta? Lei parla come un pubblico ministero. Questo fu. Il rinnovamento. Il confronto di De Mita con la nostra Elisabetta Fusconi in redazione, che insisteva a dire, ma lei, scusi, ma ci spieghi alla scorta? Lei parla come un pubblico ministero. Vincino, questi sono i politici. Ma era di reporter. No, esatto, questi sono i politici che piacciono a te, che voteresti, diciamo la verità. No, come se fossi di Nusco, non lo so, guarda, io penso che lui il paese lo conosca bene proprio, non, tutte le, per esempio qual è il problema di Marino? Marino non conosce niente di Roma, non è nato a Roma, non è ancora a Roma, per cui sbaglia alla grande tutto, no, praticamente. E invece lui... No, De Mita da Nusco ci tornava sempre, no, era... Conosce Nusco. Io per quindi. Dire sarei un grande sindaco di Palermo, detto tra di noi. Ecco. No? Solo che non, Ma ti sei mai candidato a sindaco? No, a sindaco no. Come parlamentare europeo una volta sì. Con gli antiproibizionisti, arrivai secondo nel Veneto. Primo arrivò Taradas e divenne deputato, per cui speravo che paf, quello io, e vado io, invece niente. Ah, invece non ha rinunciato, è diventato di un solito. No, non doveva rinunciare, pensavo che stac, no. Ma no, stack che cosa? No, vabbè. Stack, voglio dire, ma come? Speravi che Taradas morisse? No, questa è la verità. No, non ho detto, non mi permetterà. Cioè, li voglio bene. Siamo amici con Marco, assolutamente. No, e per quanti voti ti hanno trombato? No, ma come dire, ma non è che era di quelle cose. Assolutamente, lui prese, non lo so, 3.000 voti o 5.000, perché sempre poche cose, e io 800. Hai capito Federico, allora con 3.000 voti si andava in Parlamento Europeo, adesso se ne devono prendere 200. Ma io non ho capito come mai sorrideva il busto di Andreotti. Come mai sorrideva? Perché, allora, prima cosa, lui aveva paura degli iconoclasti, quelli là, tipo i talebani che distruggono i monumenti. Esattamente. E poi, vabbè, c'è altre cose, come dire, no, aveva trovato un successore, come dire, non lo so. Successore, vabbè. Fermati qua. Vi ringrazio, Vincino e Federico Novella, alle 9, mattino 5, su Canale 5. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. 7:20 minuti, sempre più tardi, ma ci siamo anche oggi a leggere i giornali, cari ascoltatori. Siamo qui, vi ricordo che oggi parleremo del dopo elezioni, avremo ospiti Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, Gianni Pittella del Partito Democratico, ma avremo uno sguardo anche all'estero, per esempio vedremo cosa è successo in Francia, il trionfo di Marine Le Pen, il Fronte Nazionale. Avremo ospite Marc Lazar, che è un intellettuale, uno storico, un giornalista anche, scrive su Repubblica, che dalla Francia ci spiegherà davvero se questo ciclone Marine Le Pen preoccupi oppure no. Tutto questo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali. Questo martedì 27 maggio, i titoli, una carrellata dei principali, effetto voto sui mercati, borsa più 3,6%, spread a 156, così apre il Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera le prime mosse europee di Renzi. Per Repubblica, regioni e città, il PD fa il pieno. La Stampa, Renzi raddoppia e rilancia. Per il Messaggero, Renzi, così va cambiata l'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano, Renzi, la prossima mossa, scardinare i 5 Stelle. Libero invece, così come il giornale, si concentra sul centrodestra. Libero, cercasi leader per il centrodestra, questo è il titolo di prima pagina, mentre il giornale Forza Italia, la verità. Da sinistra invece l'Unità titola così, effetto Renzi. Questi alcuni dei titoli, ma voglio subito gettarmi nella lettura di alcuni articoli. Come detto, parleremo anche di Francia, e proprio sulla Francia si concentra il giornale. Gaia Cesare intervista Jean-Marie Le Pen, vale a dire il padre di Marine Le Pen, la trionfatrice con il Front National in Francia. Vi spiego come mia figlia cambierà questa Europa. Il giornale, pagina 19. dice Jean-Marie Le Pen, non è più un'onda, è uno tsunami, siamo una forza nuova che al netto delle performance nel rapporto tra investimenti e risultati è di gran lunga la migliore, di gran lunga. C'è stato un terremoto prima le amministrative, uno tsunami è sempre preceduto da un terremoto, ecco perché avevo capito che avremmo stravinto. Estrema destra noi è una classificazione dei media del sistema per denigrarci, risponde Jean-Marie Le Pen. I nostri avversari vogliono farci passare per estremisti, ma non lo fanno, non fanno lo stesso ragionamento con gli estremisti di sinistra. Quelli li chiamano gauchisti. E poi ancora sulle accuse di razzismo risponde così: la prima volta che fui eletto deputato, il numero due in lista era un nero. Risponde sempre così Jean-Marie Le Pen quando viene accusato di razzismo. Lui che ha 86 anni è il fondatore del Front Nazionale. E poi la domanda: Marine chiederà la chiusura delle frontiere dell'Unione? Sì, la risposta secca del padre. Ma ci sono persone che fuggono da guerre? Chiede il giornale. Fuggano in Arabia Saudita, in Qatar e in paesi così ricchi. E ancora inevitabile scatta anche la domanda su Beppe Grillo: siete ancora convinto che sia destinato a sparire? Grillo non è uno che resta attaccato alla sedia, è un catalizzatore di forze, però a volte certe reazioni non sono durature. Vedremo se le renderà tali. Questo Jean-Marie Le Pen. In realtà in Francia un po' di preoccupazione c'è, si racconta al secolo XIX, alcuni atleti, soprattutto atlete olimpiche nere, hanno espresso la propria perplessità e addirittura hanno manifestato l'intenzione di lasciare in qualche modo la Francia per tornare ai loro paesi d'origine. Sono naturalizzate francesi. Secolo, pagina 9, Luigi Guelpa: paese razzista, atleti neri in fuga. La prima è stata a fare questo outing Myriam Soumaré, campionessa europea dei 200 metri a Barcellona nel 2010. Ha detto: non ho più voglia di cantare l'inno nazionale, la marsigliese con la mano sul cuore. Sono nata a Parigi, ho donato tutta me stessa a questo paese, ma scopro di non essere gradita a un francese su quattro. La Mauritania, che è la terra dei miei genitori, mi accoglierà a braccia aperte. Dopo di lei ha parlato anche un'altra sprinter, un'altra velocista, Véronique Mang, di origini camerunensi, vincitrice della medaglia di bronzo olimpica con la staffetta 4% ad Atene 2004. Senza di noi la Francia, sportivamente parlando, sarebbe molto povera. E ancora il canoista di origini togolesi Benjamin Bupetti, che ha vinto un bronzo olimpico a Pechino: ho cambiato idea, sono sicuro che a Lomé in Togo troverò l'ambiente ideale per riassaporare la vittoria. Comunque è davvero dura sentirsi indesiderati in casa propria. Insomma, questa vittoria di Marine Le Pen nel Front National è un problema per qualcuno in Francia. Approfondiremo con Marc Lazar alle 8.45. Certo, nuovo che avanza, Marine Le Pen non è proprio nuovissima, ma almeno nuova nel trionfo. Mi viene da pensare, nuovo che avanza anche nelle elezioni italiane, con la vittoria alle comunali a Nusco di Ciriaco De Mita, sindaco eletto a 86 anni, trionfa con il 77% di preferenze nella sua Nusco, provincia di Avellino, dove è nato, dove è sempre vissuto. Ed eccolo qui, per esempio, il titolo di Libero: il nuovo che avanza, De Mita, sindaco di Nusco. Per carità, non è l'elemento principale scaturito dalle elezioni di domenica, ma approfondiremo tra poco. Ma certo, tutti si concentrano anche con curiosità sull'elezione di Ciriaco De Mita. Anche La Stampa, a pagina 15, fa un articolo: sindaco a 86 anni, De Mita dice non c'è futuro senza memoria. Francesca Schianchi ne parla sulla Stampa: sarà un compito impegnativo, esordisce così davanti ai suoi concittadini che in massa l'hanno votato e poi festeggiato al grido di sindaco, sindaco. 77,35% per la precisione i consensi per Ciriaco De Mita, sostenuto dall'UDC di cui è europarlamentare uscente. appena il 22,6% ha vinto, invece ha ottenuto la sua concorrente, una ingegnere di 37 anni, Rosanna Secchiano, presentatasi con una lista civica di centro-sinistra. Sono andato a dormire ieri sera con la preoccupazione dell'affermazione dei grillini, ha detto Ciriaco De Mita. Non credevo che vincessero, ma che scassassero. Stamattina, leggendo i risultati, ho avuto un momento di serenità. Adesso faccio tanti auguri al Presidente del Consiglio che sappia rispondere a questa investitura di legittimazione democratica. Chi fa paralleli con la DC del 58 tra Renzi e appunto la Democrazia Cristiana, risponde De Mita, qualche analogia c'è, ma in superficie la DC che vinse era De Gasperi, era grande cultura, capacità di governo. È positivo che Renzi abbia vinto, ma è illusorio immaginare che l'equilibrio politico in Italia sia stabile. Così parlò Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco. A proposito di notizie estere, visto che ho iniziato con la Francia, una notizia estera che però ci riguarda da vicino, ogni giorno c'è una novità sul caso Marcello Dell'Utri. Sapete che giovedì, prima delle elezioni, doveva tornare in Italia, poi non è arrivata la firma del presidente del Libano, poi è arrivata la firma del presidente del Libano nel momento in cui si stava per dimettere per il cambio, ci sarà il nuovo presidente, proprio all'ultimo giorno è arrivata la firma. Tutto risolto, ma che il Fatto Quotidiano racconta con Sandra Amurri a pagina 17, e Dell'Utri rimane a Beirut, vogliamo certezze sulle cure. L'ultimo colpo di scena è questo: nonostante sia arrivata la firma del presidente del Libano, chi non dà la firma decisiva e finale, pare, per l'estradizione in Italia, Marcello Dell'Utri, che deve scontare una condanna definitiva in Italia, è il direttore della clinica dove lo stesso Dell'Utri è ricoverato, all'ospedale Al-Hayat, dove si trova piantonato da metà aprile. È un colpo di scena, racconta Sandra Murri sul Fatto Quotidiano a pagina 17, è l'ennesimo. Il suo avvocato Akram Azuri ha inoltrato all'autorità libanese la richiesta che il suo assistito venga ricoverato in un ospedale specializzato in malattie cardiologiche che non sia quello del carcere di Rebibbia. E allora il direttore della clinica dove si trova piantonato Dell'Utri ha detto: io non firmo le dimissioni di Dell'Utri finché non vengo a sapere la clinica in Italia dove verrà ricoverato. Tra l'altro Sandra Murri racconta questa coincidenza nel volo per andare a Beirut, nel volo di linea Beirut-Roma delle 4:25. Con noi c'era anche a bordo la moglie di Dell'Utri, Miranda Ratti, che avevamo contattato il giorno prima per un'intervista. Non parlo. Tutto quello che potrei dire anche sulle condizioni del tempo verrebbe travisato. I giornalisti, più che occuparsi di me, dovrebbero raccontare lo stato della giustizia in Italia, visto che accadono cose da far rabbrividire, sapesse. E poi ha concluso: se deciderò di parlare, glielo farò sapere. Così alla cronista Sandra Amurri del Fatto Quotidiano. Insomma, questa telenovela Dell'Utri è tutt'altro che finita. Arriverà? Non arriverà? Quando arriverà, visto che l'estradizione è stata firmata, lo scopriremo solo vivendo. Intanto, dopo la pubblicità, riprendiamo da che cosa? Dall'analisi del voto di cui sono piene le pagine dei giornali. Alessandro Milan, il Van Basten dell'informazione. Sì, il Van Basten, il Pippo Inzaghi, forse nuovo allenatore del Milan. Avranno ragionato così: siccome era un bravo calciatore, sarà anche un ottimo allenatore in Serie A. Auguri. Devo dire che i giornali sono pieni oggi di analisi del dopo voto, i vincitori che si crogiolano nella vittoria e dicono, come ha detto Matteo Renzi, ora però bisogna andare avanti ancora più velocemente di come siamo arrivati finora nelle riforme, nel cambiare l'Italia, gli sconfitti che meditano come risorgere. Insomma, un gran classico dell'analisi del dopo voto. Intanto a partire da Matteo Renzi, che ieri ha fatto questa conferenza, ha parlato, ha fatto telefonate ai leader europei, come scrive il Corriere della Sera a pagina 2, l'Italia ora deve puntare in alto, ora più forti delle paure, adesso la rottamazione. Tra l'altro a pagina 3 sempre nel Corriere della Sera, c'è un articolo di Maria Teresa Meli, Itali come Senato riemergono le riforme. Ecco qui, cari ascoltatori, io che faccio la conta, siamo nel pieno della 56esima settimana decisiva per la riforma elettorale, ma attenzione, perché Matteo Renzi ha detto l'Italicum al più presto, la riforma del Senato prima ancora e comunque entro luglio. Segnatevi allora la data, entro luglio. Ho parlato anche di questo con Giorgio Napolitano. Matteo Renzi sembra rinato, scrive il Corriere, è pronto ad andare avanti anche con il contributo di quei parlamentari del Movimento 5 Stelle che, virgolettato suo, si sono scocciati di abbaiare alla luna e di non ottenere nulla. Questo ovviamente è un retroscena, no, di virgolettati che sono attribuiti a Matteo Renzi. Ragazzi, è stato il suo esordio ieri, la gente ormai ci chiede di essere ancora più veloci di quanto noi abbiamo immaginato e promesso, quindi non possiamo perdere altro tempo né abbassare l'asticella delle nostre ambizioni. Niente più alibi e dunque questo strizzare l'occhio ai parlamentari 5 Stelle, invitandoli a riflettere, aggiungendo: noi siamo pronti ad accogliere il vostro contributo. È una forma, scrive il Fatto Quotidiano, di quel famoso scouting qualcuno dice doveva fare anche Pierluigi Bersani e che tentò invano. Questo perché, lo racconta il Fatto Quotidiano a pagina 4, addirittura poi viene messo il richiamo col titolo in prima pagina, dopo la vittoria elettorale, racconta Luca De Carolis sul Fatto, sono partiti tramite WhatsApp, no? Questo sistema per mandare messaggini gratuiti, ai telefonini di 3 o 4 grillini critici da parte di alcuni parlamentari renziani il seguente messaggio: dateci una mano sulle riforme. Questo è il contenuto del testo, racconta il Fatto Quotidiano. Ne sono partiti anche altri ieri mattina e un dissidente del Movimento 5 Stelle racconta: io non ho risposto, voglio lavorare per l'unità del movimento, ma questi messaggi non mi sorprendono. E allora c'è nervosismo all'interno del movimento di Beppe Grillo perché qualcuno potrebbe cedere. Questo racconta per esempio un ortodosso, vengono definiti così senza nomi, no? Parlano al Fatto Quotidiano senza nomi. Un ortodosso è secco, due punti aperte virgolette, ci aspettiamo problemi dai dissidenti, ortodossi, dissidenti, ma chi è? Questo è almeno così sul Fatto Quotidiano. Come detto, comunque, il Partito Democratico è il primo in tutto il territorio nazionale, questa è anche l'analisi del sociologo Ilvo Diamanti che trovate in prima pagina di Repubblica. La geografia politica dell'Italia, scrive Diamanti, è cambiata. Dopo oltre 50 anni di fratture territoriali, dalle elezioni sono emersi due partiti, o meglio due soggetti politici nazionali. Il PD, primo partito in Italia, alle regionali ha conquistato anche il Piemonte e l'Abruzzo, all'europea ha quasi doppiato il principale antagonista. Il PD di Renzi, un post partito personale, ha superato la soglia del 40% mai raggiunta da un partito di sinistra neppure nella prima Repubblica, riflesso della frattura anticomunista che ha segnato il comportamento politico degli italiani, riproposta ad arte da Silvio Berlusconi per chiudere gli avversari dentro gli antichi steccati. Ma quell'epoca è finita, il PD si presenta ora come partito nazionale, il primo in quasi tutte le province italiane, la sua crescita ha coinvolto non solo le province e le regioni del centro, ma anche e soprattutto territori ostili alla sinistra, come il mitico Nord-Est. Nelle province tradizionalmente più bianche del Veneto bianco, Treviso, Padova, Verona, lì il PD è cresciuto in misura più elevata rispetto alla media nazionale perché è riuscito a intercettare il consenso e la fiducia di ceti sociali da sempre lontani e ostili nei confronti della sinistra. Questo è il successo del PD nell'analisi di Ilvo Diamanti che trovate in prima pagina di Repubblica, poi tutta la pagina 4, il titolo è: primo in tutto il territorio, il PD ora è partito nazionale. Dall'altra parte ovviamente, certo, è un po' singolare parlare di sconfitta col 21% dei consensi, ma lo stesso Beppe Grillo in questo video in cui ha preso il Malox ha detto: siamo andati oltre la sconfitta, c'è grossa delusione certamente all'interno del movimento, tanto che ora cominciano i distinguo. Allora, intanto la linea dettata da Casaleggio sarebbe questo, e il video di Beppe Grillo già risponderebbe a questa linea. Ora bisogna sorridere di più. Questi toni molto accesi non hanno pagato. Ecco il titolo del Corriere della Sera. Grillo sul blog: siamo oltre la sconfitta, i parlamentari nervosi chiedono un vertice, Casaleggio dice bisogna sorridere di più. E anche sulla Stampa il titolo è questo: abbassare i toni e ridere di più, nell'articolo di Jacopo Jacoboni. In tutto questo il più critico è uno che già è stato critico in passato nei confronti di Beppe Grillo, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Fa due interviste al Messaggero e al Fatto Quotidiano. Dice al Messaggero, intervistato da Stefania Piras, a pagina 6: troppe urla, nessuna speranza, l'uomo solo al comando non va. Di fronte tra l'altro a questa accusa, ma chi l'ha detto che sono stati i pensionati la colpa di tutto? Ma Grillo, sindaco, l'ha detto Grillo nel video commento. Ah, io ancora devo vederlo. Ecco, questa risposta di Pizzarotti forse spiega più di tante altre l'analisi del voto. Beppe comunque lo ha ribadito, non ci sarà per sempre, serve una spinta ora, e quando questa spinta arriverà a maturazione è lì che si vedrà il vero esito del 5 Stelle. Tanto che sul Fatto Quotidiano la linea di Pizzarotti è proprio questa: è ora che il movimento cammini da solo, non sono io a doverlo dire, l'importante è chiedersi cosa abbiamo sbagliato. L'intento di Grillo era sempre stato quello di accompagnare tutti, parlo di noi, fino a un certo punto, e poi lasciare la gestione diretta in mano agli attivisti. L'ho già detto, non sono io a dover dire quando, tutto qui. Non polemizzo, non lascio, non accuso nessuno, giusto per prevenire i titoli. Chiedo di valutare cosa sia giusto fare in un momento delicato come questo. Insomma, Pizzarotti in maniera abbastanza netta, anche se dice non sono io a stabilire nel dove e nel quando, dice forse è arrivato il momento in cui Beppe Grillo, che ci ha accompagnato, ora lasci il movimento gestirsi da solo con i suoi eletti, con i suoi rappresentanti. Certo, Casaleggio che dice dobbiamo ridere di più, dall'altra parte, questa è una frase a lui attribuita sia dal Messaggero ma anche dal Secolo XIX, da Ilario Lombardo a pagina 5, si sarebbe sfogato così coi suoi italiani, popolo di pecore. Con Renzi, dice Casaleggio, ora il gregge italiano ha un nuovo pecoraio. Insomma, che frase abbastanza forte. A proposito di pecorai, voglio salutare il redivivo Mauro Meazza. Eccolo, buongiorno Mauro. Buongiorno, si potrebbe anche dire Pastori, però, che già, ha già Pastori, tutto un altro taglio. Effettivamente, sì, ma sì, sì. Non è che c'è proprio bisogno sempre di assimilare. Erano i toni di Grillo, scusami. No, pensavo che li facessi tuoi in qualche modo. Molti mi danno del grillino, sbagliano di brutto, ma insomma, e quindi ho capito. Sono entrato nei toni di Grillo, rientro in me. Senti, io vorrei anche farti rientrare in te con una segnalazione sulla Tasi. Non è che adesso, perché ti sei occupato di grandi questioni, elezioni europee, Parlamento europeo, ti puoi scordare le delibere della Tasi. Sai che è scaduto il termine venerdì. Oggi segnaliamo sulle pagine Sole 24 Ore, nella parte di norme e tributi, 2163 i comuni che hanno deliberato. Forse c'è ancora qualcuno che sta arrivando al conteggio del Ministero. Insomma, ci saranno, per farla breve, 6.000 comuni dove si pagherà a ottobre. Questo è il senso della vicenda. Ma le certezze le avremo soltanto dopo l'intervento del Consiglio dei Ministri dei prossimi giorni. Ma si è stabilita questa data che Fassino ha detto, il 16 ottobre, per chi rinvia, oppure no? No, ma infatti pare che tutto congiuri per il 16 ottobre, ma anche perché è stato detto a Radio 24, e poiché Radio 24 è una radio precisa, naturalmente. Ma più che altro l'ha detto Fassino, quindi non è. Ma non l'ha detto a te, Fassino? Sì, sì, sì, l'ha detto a me, però l'ha detto. Allora, quello che Fassino ha detto a Milano a questo punto diventa decreto legge. È scolpito, certo. E questo è. Volevo dirti, tra i comuni tra l'altro c'è anche Anghiari, quello del famoso dipinto, quelli che hanno deliberato. Così, un accenno per elevare un pochino lo spirito rispetto alle questioni del prelievo sui servizi indivisibili. Ecco, mi ha evocato questa cosa, la battaglia, la famosa battaglia di Anghiari. E poi partirà finalmente la riforma del catasto con questo stesso Consiglio dei Ministri, si attende il varo delle nuove commissioni censuarie, e questo insomma è un evento che potremmo dire albo signanda la pillo, per restare sul classico, cioè insomma un giorno sarà un giorno da ricordare, ci vorranno però diversi anni prima di vedere il nuovo catasto, e mettiamoci un po' tranquilli ad aspettare. Sei sempre interessato al condominio, Alessandro? Come no? Ah, allora guarda, oggi come sai è martedì, è il tuo giorno, detrazioni per i lavori sulle parti comuni, come fare, attenzione a quello che dovete fare, lo spieghiamo su norme e tributi, e poi il pagamento delle imposte a rate, un'altra cosa diciamo di stagione, perché oramai siamo entrati nella stagione della dichiarazione dei redditi, e quindi la stagione delle ciliegie e delle rate, le ciliegie e del modello unico, potremmo dire, sì. Sono due cose diciamo dal sapore differente, però mi verrebbe da chiosare abbastanza, e va bene, caro momento, Mauro, mi pare di capire, è il tuo momento, e allora ci sentiamo domani, e per oggi traffico, Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Allora, intanto la preoccupazione invece nel centrodestra, come titola nel giornale di centrodestra, soprattutto Libero, cercasi leader per il centrodestra, la preoccupazione per questo 16% a cui si è fermato Silvio Berlusconi. L'articolo più interessante che vi segnalo è il retroscena di Paola Di Caro sul Corriere della Sera, pagina 9, perché Berlusconi è dato per preoccupato, ma chiama Renzi, bravo, io non farò saltare le riforme. Si sente prostrato, offeso da un voto che non merito, arrabbiato un po' con tutti, da Napolitano ai giudici, i vincoli alla sua campagna elettorale, gli errori commessi anche nella campagna elettorale, un risultato inferiore alle mie attese, dice Berlusconi, ai suoi la situazione è molto molto grave, ci serve un anno per risalire, ma non mollo, nella mia vita in questi 20 anni in politica sono dovuto ripartire più volte dopo un risultato negativo e garantisco che sarà così anche stavolta. Poi appunto ha chiamato Renzi e ha detto sulle riforme garantisco, non cedo, e staremo ovviamente a vedere. Voglio andare a vedere qualche notizia anche di cronaca che non sia la più stretta politica e commento, ci sono sempre retroscena sui giornali sul presunto scandalo che ha portato all'arresto di Giovanni Berneschi, capo della Cassa di Risparmio di Genova e vicepresidente d'azione dell'ABI. I nuovi sviluppi, come raccontano tutti i giornali, in primo piano ovviamente il Secolo XIX, sono tutte le manovre degli arrestati per dribblare gli accertamenti. In alcune intercettazioni che spuntano come funghi in questi casi, in questo caso il 10 marzo Ferdinando Menconi al telefono con il collaboratore Walter Malavasi parla di contatti alla procura di Genova, il titolo del Secolo è questo: un PM ci dà le carte segrete, con l'altro mi vedo al bar. Vabbè, insomma, non si sa se millantavano, ma certo raccontavano di possibili entrature in procura, non certo con il procuratore capo Michele Di Lecce, definito anche in questa intercettazione inavvicinabile, ma si sostiene di poter contare su un amico vice procuratore ed ex reggente per cercare di sapere le notizie. Tra l'altro notizie, lo stesso Papa Francesco si sarebbe speso in prima persona per avere notizie su quello che succedeva all'interno della Carige, così raccontano i giornali. A un certo punto Berneschi si confida con l'attuale vicepresidente della Fondazione Roberto Rommelli: lo IOR non puoi regalare da 7 a 9 milioni al Papa, no, non c'entra il Papa, a Bertone, mi segui? Insomma, spunta sempre il cardinale Bertone, dove ti giri nelle inchieste, ultimamente almeno spunta sempre nelle intercettazioni, per carità, il cardinale Bertone. A proposito di inchieste, che è successo all'ex ministro all'ambiente nell'epoca Monti? Corrado Clini, 66 anni, è stato arrestato, si trova agli arresti domiciliari. L'accusa è di avere sottratto, insieme a un'altra persona che è stata arrestata, 3,4 milioni di euro. L'altra persona arrestata è Augusto Calore Pretner, ingegnere imprenditore coinvolto con le sue società nel progetto New Eden, finanziato dal Dicastero dell'Ambiente con 54 milioni di euro. L'accusa è che 3,4 milioni di questi 54 che erano destinati a costruire reti idriche ed altre opere in Iraq sarebbero stati sottratti. L'accusa infatti è per Clini e per Pretner è di peculato. Si sarebbero divisi i due almeno 3 milioni e 400 mila euro grazie a un complicato giro di fatture false, spostamento di denaro dall'Italia all'Olanda, passando per alcune isole caraibiche e poi arrivando in Svizzera, in particolare a Lugano. Arrestato l'ex ministro Clini, che ora era direttore all'ambiente, e per lui domiciliari. C'è anche tutto il racconto di Fiorenza Sarzanini a pagina 26 del Corriere. La ricostruzione, secondo ovviamente i magistrati, soldi dai Caraibi a Lugano, ora si indaga sui progetti in Cina e Montenegro, su come sarebbero stati sottratti dei soldi. Vabbè, sembra arrivata a un lieto fine, stiamo attendendo forse a giorni, forse oggi stesso, la vicenda dei 31 bambini, l'abbiamo raccontata varie volte, bloccati in Congo nonostante siano stati adottati da altrettante famiglie in Italia, ma che erano stati bloccati in Congo. Ieri il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha detto: sono pronto a mandare un aereo per portarli qui. I 31 bambini bloccati in Congo riabbracciano le nuove famiglie, questo è il titolo che trovate sui giornali. Speriamo davvero che questa storia possa avere un lieto fine. Ma io sono al momento della conclusione, al momento della carta costa, ormai trionfa il giornale sempre in testa alla classifica, che oggi con Simonetta Caminiti in una mezza pagina, pagina 26, ci racconta questo imprescindibile argomento. Anche gli animali mettono su famiglia in età matura. Cari italiani, anche gli animali, è la storia di wisdom, saggezza, un esemplare di albatros che alle Hawaii è diventata mamma a 63 anni. Anche l'albatros diventa mamma a 63 anni. E se possono gli animali, e perché non possono mettere su famiglia tardi? Anche gli animali per eccellenza, uomini e donne. Amici del giornale, sta per arrivare la coppa, mi sa, la carta costa, ricordatevelo. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori, sono le 8:19 minuti in punto. Una delle cose più interessanti che ha detto Matteo Renzi ieri nella conferenza stampa post vittoria è quella, è la frase che riguarda le riforme, è esattamente questa frase. Mi auguro, mi piace pensare che in queste ore si produca dentro le donne e gli uomini di buona volontà di 5 Stelle una riflessione sul risultato elettorale. 5 Stelle ha 150-160 parlamentari, un numero enorme. Se questi parlamentari continuano a utilizzare il Parlamento come il luogo degli show e delle proteste, ho l'impressione che perdano il loro elettorato, che tradiscano la loro speranza. Se invece nel rispetto dei ruoli nessuno gioca a confusione o a inciucio. Insomma, e poi continua la questione, l'apertura di Matteo Renzi in qualche modo a raccogliere il contributo anche degli esponenti del Movimento 5 Stelle, quel movimento che si deve riprendere dopo aver detto vinciamo noi, aver tenuto l'asticella molto alta, aver scoperto invece l'indomani del voto che tentare di superare nel numero di voti il Partito Democratico, almeno per il momento, è solo un lontano miraggio. Renzi dunque apre in qualche modo a una collaborazione con chi vuole fare le riforme, quelle riforme sulle quali bisogna correre, e ha detto Renzi ancora ai suoi, sulle quali riforme non ci vuole nessuno che possa dare ora, mettere il bastone tra le ruote. Secondo il Fatto Quotidiano, questo strizzare l'occhio del Premier Renzi nei confronti del Movimento 5 Stelle si è concretizzato anche con veri e propri messaggi mandati da alcuni esponenti del PD ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle su WhatsApp, no? Questa piattaforma per messaggi gratuiti, dicendo, testo del messaggio: dateci una mano sulle riforme. Ma che farà Grillo? Beh, queste sono le domande del dopo voto. Con noi c'è due persone che ritornano, ospiti. Roberta Lombardi, buongiorno, del Movimento 5 Stelle, benvenuta. Buongiorno, bentrovati a tutti voi. Così come Gianni Pittella, eurodeputato riconfermato del Partito Democratico, con quanti voti, quante preferenze, Pittella? Buongiorno a tutti, 234.000. 234.000 preferenze, uno dei più votati, mi pare. Allora, Roberta Lombardi, intanto è possibile un dialogo? Le risulta, cioè, di questi messaggi che circolano intanto? Messaggi da Renzi a qualcuno di voi? Ma veramente no, lo apprendo in questo momento da voi a radio. Tra l'altro, noi colleghi del 5 Stelle siamo in rete con questi sistemi di messaggistica istantanea tra di noi, quindi qualunque cosa succeda in tempo reale ci aggiorniamo. Francamente no, però vabbè, questi ammiccamenti del PD sono ormai un anno e mezzo che ci vengono, ne veniamo informati dai media, però in realtà poi non si concretizza. No, non si concretizzano, ma comunque noi siamo abituati con loro a parlare nelle sedi opportune, quindi sì, insomma, nelle commissioni, nell'aula, tranquillamente. Ma come trova l'offerta di Renzi? Un'offerta, come dire, scandalosa dal punto di vista politico o legittima? Allora, è legittimo lavorare insieme all'interno del Parlamento, cosa che noi stiamo chiedendo da mesi. Veramente è meno legittimo, a nostro avviso, usarlo un po' come non lo so, adesso alla fase elettorale probabilmente, cioè, è finita, ma in realtà probabilmente per qualcuno potrebbe ancora non essere finita. Noi abbiamo visto che in questo anno e passa che siamo all'interno del Parlamento, i luoghi della discussione sono vuoti, nel senso le commissioni, l'aula, non c'è una reale attività parlamentare, non c'è una reale attività di studio dei provvedimenti, di confronto sui singoli testi, emendamenti, e lì trovare una posizione di confronto, di compromesso, anche perché insomma all'interno del Parlamento si fa anche quello. Io sono in Commissione Affari Costituzionali, quindi le ho viste tutte finora le riforme che dovevano arrivare, e la posizione del PD è sempre pregiudiziale nei confronti del nostro lavoro, dicendo sì, sono buone idee, però vengono dal Movimento 5 Stelle e quindi votiamo no. Un po' in continuità con quello che è stato il primo caso Rodotà, veniva dal Movimento 5 Stelle, quindi diciamo pregiudizialmente no. Quindi non però vede, noi siamo sempre pronti a lavorare. Non vede molto dialogo all'interno delle sedi istituzionali. No, senta, purtroppo non ne vedo nessuno. Le chiedo però questo, Casaleggio pare che abbia detto questo su tutti i giornali, c'è scritto... con l'elezione di Renzi, con questo voto a Renzi, gli italiani hanno un nuovo pecoraio, cioè ha dato agli italiani, insomma, del popolo come un gregge di pecore. Lei condivide? Sicuramente l'italiano con questo voto si è dimostrato molto conservatore, nel senso, noi abbiamo fatto sempre campagne elettorali anche dall'anno scorso molto molto nette, abbiamo detto non votate Movimento 5 Stelle se non siete pronti a iniziare a giocare anche qualcosa di vostro, a mettere sul piatto della bilancia un impegno, una fatica, perché ovviamente, cioè, riappropriarsi delle proprie istituzioni non è una passeggiata dopo tanti anni in cui ci hanno abituato al concetto di delega. Rientrare in prima persona nella vita politica non è semplice, richiede un coinvolgimento personale che non tutti sono disposti a fare, quindi evidentemente molti italiani ancora non si sentono in grado di fare questo salto. Noi speriamo con il proseguo della nostra attività di convincerli che invece, insomma, si può fare. Conservatore sì, ma pecore è un'altra cosa, insomma, non sottoscriverebbe questa frase. Francamente non so neanche se è veramente attribuibile a Casaleggio. Questi giornalisti, queste ricostruzioni. No, è che a volte ci sono delle sintesi giornalistiche che lasciano da prendere una, e lo so proprio per esperienza personale, che di una frase prendono una parola, un'altra, e lasciano e costruiscono tutto il titolo. Comunque, Gianni Pittella, paradossalmente da parte del Partito Democratico si verrebbe da dire come si può gestire un risultato del genere. È paradossale proprio perché un risultato del genere vuol dire oltre il 40%, dunque c'è il rischio anche di una sbornia da voti per il Partito Democratico? No, mi pare proprio di no, perché le parole che ha detto Renzi all'indomani di questo grande successo sono parole di grande sobrietà e di grande realismo, nessuna altezzosità, nessuna arroganza, anzi disponibilità al dialogo, determinazione nel portare avanti questo successo in Europa, e questa è la prima cosa, perché si votava per le europee, il carico di consensi così grande deve essere speso in quella sede per modificare quelle politiche europee che sono sbagliate, a cominciare dalle politiche economiche e sociali, dal patto di stabilità. Io considero questa la questione madre, allentare i vincoli del patto di stabilità per consentire investimenti nei settori strategici dello sviluppo e anche il cofinanziamento dei fondi europei. Questa la considero la prima priorità e penso che il grande successo ottenuto dal PD e da Renzi debba essere speso, come già ha detto Matteo, in questa direzione. Non vede troppe persone salire sul carro del vincitore, ma ha fatto molta impressione. Lei non ha fatto impressione quella foto in cui si vedeva la nuova classe dirigente del PD, si vedeva anche qualcuno del PD, non so, faccio dei nomi, penso a Stefano Fassina, qualcuno che non ha mai risparmiato critiche, o Matteo Orfini, Nico Stumpo, che erano lì tutti a festeggiare, insomma, eppure non sono mai stati renziani della prima ora. Vabbè, il PD è fatto di tante persone, non è che ci sono soltanto i renziani sono la stragrande maggioranza, ma ci sono anche altre persone che hanno il medesimo diritto di cittadinanza e anche di festeggiamento nel momento in cui hanno contribuito, sia pure in quota parte, all'esito della vittoria, insomma. Mi dica che cosa consiglierebbe lei, che è un europarlamentare riconfermato, ai 17 esponenti del Movimento 5 Stelle che sono stati eletti, che verranno all'Europarlamento e di cui peraltro non conosciamo moltissimo fino a questo momento, per avere un atteggiamento propositivo e non distruttivo, che poi è l'accusa che spesso viene fatta agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Una volta che arriveranno a Bruxelles o a Strasburgo, che dovranno fare? Io quando sono arrivato la prima volta a Bruxelles, lontano 99, ho iniziato a studiare i meccanismi e le procedure dell'attività parlamentare. Mi sono reso conto di quanto difficile e complicato sia la vita parlamentare europea, di quanto sia necessario studiare i singoli dossier, fare amicizia e avere un buon rapporto con i colleghi di tutte le nazionalità, cercare di incidere sui fatti. Lì, insomma, non è che si può fare propaganda, lì si devono fare cose. Le cose sono il lavoro in commissione, per ogni singola direttiva che arriva, per ogni singolo programma, cercare di fare degli emendamenti che siano funzionali alle cose scritte nei propri programmi elettorali. Insomma, è un lavoro minuzioso, un lavoro non da tribuna televisiva o radiofonica, piuttosto che da culo di pietra, se posso permettermi questa espressione. Io consiglierei questo, insomma, se vogliamo modificare in meglio questa Europa che per certi versi non ci soddisfa, dobbiamo fare un lavoro certosino e possibilmente farlo con la compattezza della deputazione italiana. Noi abbiamo questo merito, perché la deputazione italiana, a prescindere da differenze, diciamo, di partenza, sui principali dossier ha cercato di lavorare insieme e speriamo di mantenere questo clima. Insomma, il lavoro da culo di pietra direi che è l'immagine migliore per capire quello che serve all'Europarlamento. Io però vorrei tornare sulle questioni anche italiane. Onorevole Lombardi, ma voi avete capito cosa è stato sbagliato nella campagna elettorale nel Movimento 5 Stelle? Ma ci stiamo riflettendo, però insomma alla fine probabilmente quello che non siamo stati bravi a veicolare è il nostro messaggio, nel senso che probabilmente avremmo dovuto parlare un linguaggio più rassicurante o comunque far capire meglio che il cambiamento non significa un terremoto senza punti di riferimento, significa andare dalla fase della protesta, che è la fase non nostra ma la fase di tutti i cittadini italiani, perché io sfido ad andare da qualcuno in qualunque consesso, dal bar, una cena con amici, a scuola quando accompagni i figli, al mercato, e a trovare soddisfazione nei cittadini sull'operato dei vari governi che si sono succeduti, compreso anche questo. Quindi passare da quella fase alla fase della proposta, ma la proposta, come dicevo prima, non può essere la delega nei confronti, certo, però dell'uomo nuovo che no, gli italiani sanno spesso anche il gusto della lamentela fine a se stessa. Anch'io ne sento di persone che si lamentano, tantissimi hanno ragione, altri si lamentano per una lamentela fine a se stessa. Il torto infatti è che se ti lamenti devi fare qualcosa per cambiare le cose, certo. Se no non è ragionevole. Ma vuol dire che è stato sbagliato questi toni troppo urlati di cui si discute molto, i toni di Beppe Grillo, tanto per capire, Ma I toni urlati, c'è stato in realtà, cioè parole grosse sono volate anche al nostro indirizzo, cioè se io penso che siamo stati definiti in tutti i modi, fascisti, comunisti, stalinisti, Hitler, qualunque epiteto, comunque qualunque qualificazione negativa è stata data al nostro, alla nostra persona o comunque insomma al nostro modo di proporci. Quello che invece è stata data meno rilevanza e probabilmente, ripeto, siamo stati anche noi poco capaci di veicolare, è tutto l'enorme lavoro che abbiamo fatto in questo anno. Enorme lavoro che in parte è stato apprezzato, perché comunque io vorrei anche dire, noi avevamo posto un'asticella, come diceva anche lei prima, molto molto in alto, però è anche vero che noi il risultato dell'anno scorso era un risultato, diciamo, sull'onda emotiva della protesta. Quest'anno, a distanza di un anno, con un anno di lavoro nelle sedi opportune e competenti, abbiamo consolidato 6 milioni di cittadini che si riconoscono nel lavoro di altri, certo, cittadini. Certo, il 21% c'è, però le chiedo questo, oggi sì. Federico Pizzarotti, il sindaco, sì, di Parma, che spesso è stato anche un pochino critico, l'anima più critica nei confronti di Grillo, fa due interviste al Fatto Quotidiano, al Messaggero, a dire forse è il momento in cui il movimento deve camminare da solo. Non dico quando, non dico come, ma Beppe Grillo ci ha sempre detto che ci avrebbe accompagnato per poi lasciare al movimento, come dire, andare avanti con le proprie gambe. È il momento in cui Beppe Grillo dovrebbe anche un po' farsi da parte, secondo lei? Questo è già molto successo durante la campagna elettorale, perché se insomma chi ci ha seguito sa che Beppe ha già iniziato a passare in un certo qual modo il testimone a parecchi di noi che sono stati tutti i weekend nelle piazze, noi lo facciamo anche normalmente, devo dire, fuori dalla campagna elettorale, ma ovviamente con un maggior trasporto durante la campagna elettorale, fuori nelle piazze per spiegare che cosa abbiamo fatto e che cosa volevamo fare, che cosa faremo in Europa con questi 17 straordinari portavoce dei cittadini. Quindi il passaggio graduale inizia a esserci. Beppe l'ha sempre detto, ha detto io sono stato l'inizio, io e Casaleggio siamo all'inizio, però poi piano piano il movimento, sì, però poi in campagna elettorale, certo, ma in campagna elettorale è lui che fa i comizi, è lui che ci mette la faccia, è lui che fa, voglio dire, è lui. Ma guardi, no? Abbiamo riempito tantissime piazze, adesso mi ricordo Piazza Castello a Torino, semplicemente con i portavoce eletti e i candidati del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Quindi ci sono insomma le foto, le cronache giornalistiche. Quindi una volta era, questo lo dice sempre anche lui, dice una volta ero io che riempivo le piazze, adesso la cosa bella è che praticamente sono io che faccio, inizio a fare da spalla a voi. È così, ma insomma mi sembra ancora un po' poco. Però io vorrei sentire da Pittella, prima di concludere con voi, lei Pittella ha detto ci vuole la forza di cambiare anche i vincoli, di convincere l'Europa ad avere una crescita in Italia, magari violando o rimandando qualche vincolo di bilancio, mantendolo più flessibile? Piuttosto di della violazione, io parlerei di una moratoria, è stata concessa anche in altri momenti ad altri paesi. Una moratoria di che tipo e per quanto tempo? Beh, si può fare per 3 anni una moratoria sul 3%, a condizione che siano specificate le voci. Non è che vogliamo la moratoria per spendere e espandere in modo assistenziale, ma se si tratta di innovazione tecnologica, di istruzione, di difesa del territorio, faccio degli esempi, non è che si può dire che non si spendono i soldi della ricostruzione all'Aquila perché incidono sul patto di stabilità, ma stiamo scherzando, le persone che hanno perso le famiglie, le case, le botteghe non possono ricostruire perché c'è un numerino a Bruxelles che vincola la spesa, ma siamo all'assurdo, questa è follia. E questo secondo lei Renzi dovrebbe farlo subito, andando da Angela Merkel, andando o quando assumerà la presidenza europea col semestre italiano? C'è il semestre italiano, quella è la finestra giusta per fare questa offensiva, facciamola insieme, noi la facciamo nel Parlamento, Renzi la farà nel Consiglio. Io penso che non soltanto per l'Italia, ma per i paesi dell'Europa del Mediterraneo, Questo è indispensabile, altrimenti si avrà una frattura ancora più profonda tra un'Europa del Nord che va bene e un'Europa del Sud che sta malissimo. Questo staremo a vederlo. Io nel salutarvi, Roberta Lombardi, ma lei ci chiede ancora al vinciamo noi, sinceramente, o è stata proprio uno, come dire, una roba che vi si è ritorta contro in maniera clamorosa adesso? No, io sono fermamente convinta, e anche i miei colleghi ne parlavamo proprio ieri, che adesso è diventato un vinciamo poi, ma prima o poi i cittadini questo paese ce lo riprendono. Sarà più lunga, una rivoluzione inarrestabile ma lenta. Adesso soft. Piano piano siamo entrate in tanti comuni, siamo al ballottaggio in altri, siamo entrati nei consigli regionali, quindi piano piano ce lo riprendiamo il paese. Vinciamo poi. Chi lo sa, intanto per ora c'è il Malox. Vi ringrazio Roberta Lombardi e Gianni Pittella per essere stati con noi. Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, Gianni Pittella, eurodeputato riconfermato al Partito Democratico. Dopo la pubblicità, le vostre chiamate 800 24 00 24, il parere degli ascoltatori, e poi ci concentreremo anche su quello che succede in Francia. Abbiamo uno sguardo un po' più europeo, visto che erano elezioni europee. Che è successo? Il trionfo di Marine Le Pen, c'è il timore, ci sono degli atleti, delle sportive di colore nero, di pelle nera, che dicono andiamo via dalla Francia, questa Francia non ci desidera più. È davvero l'avanzata di un fronte razzista in Francia? Ne discutiamo tra poco. 24 mattino. E allora le 8:41 minuti, eccoci qua ritornati con 24 mattino. Vorrei sentire qualche ascoltatore, sentire sempre il polso dei cittadini italiani. Che ne pensate di quello che è successo allora dopo queste europee? Vorrei andare a Rieti da Edmondo. Buongiorno Edmondo. Buongiorno Alessandro. E allora? Che è successo? E che è successo? Già dal tono. Ma guardi, io non ho partecipato a queste elezioni. Quello che so è che difficilmente, in un periodo di crisi dove molte persone hanno fatto ricorso ai propri nonni in pensione, con l'autopensione ovviamente che non corrispondono ai contributi, con lo Stato che è sempre una grossa mammella da cui suggere, difficilmente gli italiani da statali e statalisti diventeranno qualcosa di diverso. Ma perché? Ma lei non ha votato? Non ha votato il mondo? Ma che senso c'ha? Non capisco il senso. Qualsiasi cosa si fa qui è già decisa, gare già decise. Ma poi a me quello che testimonierà, quello che dico, saranno i telegiornali. Da dove si continuerà a sapere che Tizio, piuttosto che Caio, si è accordato, si è concusso, si è... Quindi insomma una sfiducia totale. L'Edmondo fa parte del 45% degli italiani che non ha Beh, che non siamo fatto. Ormai una buona maggioranza, eh? Non una maggioranza, però. In altri paesi europei non hanno votato il 60%, il 65%. Sì, infatti gli italiani, ripeto, sono molto ancora statalisti. Credono ancora a questa cosa del voto. Va bene Edmondo, la ringrazio. Vorrei andare a Livorno da Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Niente, io la penso così. Io ho votato PD per un semplice motivo, perché Grillo non è che non dice delle cose che agli italiani non vanno bene, vanno benissimo, ma non si può pretendere da un giorno all'altro, come fa lui, togliamo, leviamo, facciamo. È come, io ho dato un esempio a questa cosa qui, no? È come dover fare una strada nuova e chiuderla del tutto e non far passare la gente che abita, diciamo, da un paese all'altro. Sì, non si chiude, si fanno delle deviazioni, si incomincia. Allora Grillo dovrebbe, siccome c'era dei punti che gli stava bene, allora intanto incominciamo. Poi dopo, pian piano, si guarda il progetto, si fanno delle modifiche, ma non si chiude da un giorno all'altro. Cioè non si può pretendere di levare tutto così e mettere gente nuova e ricominciare. Cioè, ma vedeva un messaggio troppo, come dire, troppo rivoluzionario, troppo distruttivo senza una costruzione, mi sembra. Una fabbrica, se funziona male, non si levano tutti i dipendenti e se ne mettono dei nuovi. Nessuno, uno nuovo che entra lì dentro, non sa il macchinario come funziona, come non funziona. Allora si mettono delle persone nuove, si guarda chi è il vagabondo, chi non è il vagabondo, e man mano si licenzia le persone e si sostituiscono. Un cambiamento soft, lei dice. Va bene, Claudio, la ringrazio per questa analisi, ma certamente in Italia c'è stato questo voto al Partito Democratico che ha consacrato Renzi al 40% e oltre. In Francia c'è stato quello che oggi Jean-Marie Le Pen, vale a dire il fondatore del Front Nationale, il padre del leader Marine Le Pen, ha definito in un'intervista al giornale un vero e proprio tsunami. Dopo il terremoto che c'è stato alle ultime presidenziali, ora lo tsunami con il Front National che diventa il primo partito in Francia, questo almeno alle elezioni europee. Ne vogliamo parlare tra un attimo, lo faremo dopo il traffico con un professore, Marc Lazar, che è sociologo, studioso della politica francese ma anche italiana. Professor Lazar, buongiorno. E benvenuto. Allora, un attimo di pazienza, le informazioni sul traffico e poi sono da lei per cercare di capire come la Francia sta reagendo al ciclone Marine Le Pen. Eccoci qui, allora, Marc Lazar, docente di storia politica e sociologia all'Istituto di Studi Politici a Parigi. Professor Lazar, è davvero un terremoto inaspettato quello della vittoria di Marine Le Pen e del Front Nazionale in Francia? Un terremoto sicuramente, inaspettato direi di no, perché si aspettava qualcosa di importante, è andato al di là di quello che si poteva pensarci, cioè nel senso che il partito del Front National, di Marine Le Pen, è il primo partito, ma come lei ha detto giustamente, almeno a queste elezioni europee, perché due mesi prima abbiamo avuto elezioni amministrative, anche se il Front National ha fatto un bel successo, non era il primo partito, però l'insegnamento di fondo è che sicuramente c'è qualcosa che trema in tutto il sistema dei partiti in Francia. Senta, in un'intervista oggi al giornale, quindi un quotidiano italiano, Jean-Marie Le Pen dice ma voi mi date dell'estremista di destra, dipingete il nostro movimento come estremista di destra, invece non è vero, sono i giornali che ci denigrano così, non si capisce perché quegli estremisti di sinistra vengono definiti invece gauchisti. È un partito estremista e, aggiungo, razzista il Front National? Guardi, il Front National è nato come con Jean-Marie Le Pen come partito di estrema destra, questo negli anni 70, e senza dubbio un partito di estrema destra che aveva come modello all'epoca il Movimento Sociale Italiano, anzi hanno preso la fiamma tricolore come simbolo della loro avvicinanza con il MSI. La cosa che è cambiata molto è appunto la figlia Marine Le Pen, ha cambiato molte cose, ha cercato di cambiare il suo partito in confronto di quello che faceva il padre. Lei, Marine Le Pen, ha deciso di non parlare più della Seconda Guerra Mondiale, che era un'ossessione del suo padre, non vuole più parlare di antisemitismo, cerca di uscire, di sdoganare il Front National, cerca di fare un partito più presentabile e ha cambiato molte cose delle sue tematiche. Rimane sicuramente un'ossessione nel Front National e l'immigrazione, e più esattamente l'immigrazione di origine maghrebina e islamica, tra virgolette. Infatti questi sono temi che vorrò toccare tra un attimo. Prima però le chiedo perché Israele ieri ha detto Marine Le Pen può venire come vuole e quando vuole da turista nel nostro paese, ma non come leader politico. Questo costituisce un problema per la Francia? Sicuramente Marine Le Pen ha pensato, non ha ancora fatto, il viaggio che John Focofini aveva fatto molti anni fa, si ricordi, quando era andato in Israele, è andato a Yad Vashem, aveva fatto tutto un lavoro per dimostrare che non era più il giovane fascista che era nel suo passato. Marine Le Pen ci pensa, ovviamente attualmente in Israele, nella comunità ebrea in Francia, ci sono molte reticenze in confronto di Marine Le Pen, perché c'è il sentimento che Marine Le Pen è su posizione a volte ancora un po', diciamo, antisemita, nel senso contro i lobby, i cosiddetti lobby ebrei attraverso il mondo. Secondo me, se Marine Le Pen è intelligente come è, sicuramente cercherà di cambiare questo per avere ancora più, tra virgolette, rispettabilità. Lei ha parlato dell'immigrazione, mi ha colpito anche questo. Ieri alcuni atleti ed atlete di pelle nera, francesi o naturalizzate francese, hanno dichiarato: non ci sentiamo più graditi in questo paese. Penso per esempio a Myriam Soumaré, campionessa europea dei 200 metri a Barcellona, oppure un canoista anche del Togo che dice: tornerò in Togo. Ma davvero spaventa così tanto, e veniamo al tema dell'immigrazione, la vittoria del Front National? No, guardi, secondo me forse sono un po' esagerate queste reazioni, che io non avevo sentito parlare, però credo che c'è sicuramente un momento di grande tensione nella società francese, perché da una parte c'è tutto il sentimento della parte di francesi di origine immigrata. Sono francesi, perché con il nostro diritto di cittadinanza sono francesi d'origine, per esempio magrebina, nera, eccetera, che si sentono una forma a volte di stigma, che hanno più difficoltà a inserirsi, a trovare lavoro, vivono in periferie nel quale la vita non è facile, e quindi hanno a volte questo sentimento di rigetto, diciamo. È vero che la cosa alla quale assistiamo in Francia esattamente dal 2009, e in tutti i sondaggi che abbiamo, sempre di più una tentazione dei francesi di ripiegamento, dal rigetto, più esattamente dalla sfiducia verso l'altro, che sia immigrato, che sia l'europeo non francese, eccetera. Il cambiamento è stato in 2009, posso dirla che dagli anni 90 fino al 2009 era esattamente l'opposto, una Francia molto più aperta, ma aperta all'estero, aperto allo straniero. Si ricordi della vittoria della squadra francese al Mondiale del 98, e questo era il grande momento di stiamo tutti insieme. Forse questo va di pari passo con la crisi economica, questo succede anche in Italia molto probabilmente. Assolutamente, la ragione per la quale indico la data 2009 è la grande svolta, e il Front National gioca su questo. E il risultato, solo per darvi un'idea, adesso il Front National è il primo partito operaio, il primo partito degli impiegati, il primo partito dagli disoccupati, il primo partito dai meno di 24 anni e il primo partito della gente che guadagna ogni anno meno di 30.000 euro. Ed è il partito, sempre seguendo le parole di Jean-Marie Le Pen, dunque il fondatore, il padre di Marine, è il partito che chiederà all'Europa la chiusura delle frontiere dell'Unione. Questo dice, rispondendo oggi al giornale: sì, mia figlia chiederà la chiusura delle frontiere. È questa l'Europa che vuole Marine Le Pen, secondo lei, oppure no? Assolutamente, perché vuole distruggere l'Europa. Lei è per il rafforzamento dello Stato-Nazione, il ripiegamento sullo Stato-Nazione. Questa è la posizione di Marine Le Pen. Però guardi, dobbiamo essere molto attenti, perché c'è una vittoria straordinaria del Front National in queste elezioni, c'è un terremoto, c'è un tsunami, l'UMP, il partito, ex partito di Sarkozy, cioè il partito di Nicolas Sarkozy, l'ex Presidente della Repubblica, in piena crisi oggi, con una riunione decisiva, perché ci sono grandi affari di finanziamento illicito del partito, il Partito Socialista quasi distrutto, e quindi il Front National ha una dinamica politica importantissima. Però a livello europeo, lei primo avrà difficoltà a costituire il suo gruppo, perché ha bisogno di 7 diversi, diversi paesi, e poi all'interno del suo gruppo, anche se ce la fa, avrà molto difficoltà a gestire questo gruppo, perché sono molto diversi tra di loro. Potrebbe unirsi con Grillo, secondo lei? Con la Lega sicuramente. Con Grillo? La Lega sì, ma appunto, se prendiamo l'esempio della Lega Nord, è molto interessante, perché al di là della convergenza che ho sentito anche la Lega Nord ieri, in una trasmissione televisiva italiana, dicendo: domani o dopodomani vedo Marine, avremo un grande... ok, ma dopo vedremo se hanno veramente accordi tra le posizioni della Lega, per esempio sulla regionalizzazione e la posizione molto... Ma è chiaro, si è detto spesso anche qui in Italia che è una unione di circostanza, un'unione diciamo vantaggiosa dal punto di vista elettorale, ma non politica. Le faccio l'ultima domanda, professor Lazar, proprio flash: è Marine Le Pen sarà la prossima Presidente della Repubblica in Francia? No, però non credo, però sicuramente, almeno al giorno di oggi, sarà presente al secondo turno. Al secondo turno. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Marc Lazar, docente di storia politica e sociologia all'Istituto di Studi Politici a Parigi, per questa analisi di quella che è la vittoria, il trionfo sicuramente, di Marine Le Pen, Front National in Francia. Ci fermiamo qui anche per oggi. Potete scriverci 24 mattino @radio24.it. Saluto chi? Tutti, Miriam Lucchetti in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi e il nostro Peter Bescapè, il fondatore del partito del Bombardino, il nostro alpino di cui io sono tesoriere onorario, questo sia l'unico partito di cui mi porto l'onore di appartenere, grande il partito del Bombardino. A domani alle 6:30, a domani!